d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Casoni, il liquore rinato dalle macerie del terremoto, di Raffaella Calandra. Io abito a San Felice sul Panaro, per cui essendo stato alle 4:20 di notte io ero a letto, però una volta alzato, dopo essermi sincerato che i miei familiari stessero tutti bene, ho provato a contattare l'azienda in quanto il custode era teoricamente presente ma non rispondeva. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono, sono venuto direttamente, quindi io prima delle 5 del mattino ero già qui. La casa e subito dopo l'azienda. E per molti da queste parti, nella bassa emiliana, la casa è anche l'azienda. Così, nella notte in cui tutto cambiò in questi borghi di capannoni e fatica, la notte del 20 maggio 2012, la prima delle due forti scosse che uccisero 28 persone, non furono in pochi a ritrovarsi davanti ai cancelli. In questo caso della Casoni, sinonimo di liquori e digestivi, marchio storico dell'industria italiana, simbolo di Finale Emilia. Simbolo come quella torre dell'orologio ancora ridotta in macerie. Un terremoto distrugge, per definizione, si sa, ma può capitare anche che proprio un terremoto si tramuti in energia per tenere botta, ricostruire e, casomai, lanciarsi in una lucida follia, per dirla con gli attuali titolari della Casoni, che proprio dopo il sisma decisero di riportare quel marchio storico nel controllo della famiglia che l'ha fondato più di 200 anni fa. E così, in controtendenza rispetto al mercato, che vede sempre più spesso etichette celebri essere progressivamente fagocitate, ora da multinazionali, ora da grandi gruppi, Paolo Molinari e Pier Giorgio Pola hanno riportato a Finale Emilia il cuore e la testa della Casoni. Perché questa non è solo una storia d'impresa, questa della Casoni, una delle 5 aziende con la più alta produzione di bottiglie in Italia, 20 milioni, è anche una storia di territorio e passione, che senza quel terremoto, ammette Molinari, non sarebbe stata neanche concepita. Questa azienda appartiene alla mia famiglia dal 1814, quindi una delle più antiche distillerie in Italia, ed era in quel momento sul mercato. Quindi ci armiamo di coraggio, con la passione che abbiamo del nostro territorio, del nostro paese, perché questa azienda è su questo territorio, è in questo paese da 200 anni. Tanta gente è cresciuta all'interno di questa azienda e ha realizzato sogni grazie a questa azienda. Voi vi siete detti che cosa possiamo fare, però la vostra società era all'interno del gruppo Averna. Quando abbiamo approcciato l'idea di acquistare la società era nel gruppo Campari. Campari aveva rilevato più o meno nel 2014 da Averna la proprietà della Casoni e aveva rimesso sul mercato, diciamo, lo stabilimento Casoni, avendo Campari degli stabilimenti più importanti e più grandi in altre realtà italiane. E quindi la situazione era un po', come dire, di incertezza per quanto riguardava il futuro di questa azienda. Un marchio Casoni storico, però passato attraverso diverse situazioni di cessione aziendale, quindi da Casoni ad Averna e ad Averna Campari, dove ovviamente il marchio Casoni si era un po' perso nel portfolio dei prodotti, perché ovviamente un grande gruppo, ovviamente si privilegiano i brand del grande gruppo, e quindi c'era un grande lavoro di ricostruzione da fare sulla fiducia nei confronti dell'azienda, ma più che altro sulla fiducia nei confronti del marchio. Abbiamo lanciato la nostra sfida a questa grande azienda che è Campari. Ovviamente è stata una trattativa, devo dire la verità, lunga e laboriosa, in un anno e mezzo di incontri, di passioni, di lotte anche e di scontri, siamo riusciti a portare a casa questo risultato che per noi, insomma, è un po' lo sforzo della vita, ecco. L'azienda che torna nelle proprietà, diciamo, comunque della famiglia, andando un po' controcorrente a quelli che sono i flussi dei mercati, dove vediamo che invece storici marchi italiani di vari settori, dalla moda all'alimentare, finiscono per essere acquisiti da gruppi multinazionali. Esattamente, devo dire la verità, questa avventura nasce proprio dalla passione per un'azienda del nostro territorio e l'idea di perderla per qualsiasi motivo, insomma, ci ha dato questa spinta ulteriore. È ovvio che sì, rappresentiamo qualcosa di in controtendenza, cioè dal grande al piccolo, dalla multinazionale a una piccola compagine di sognatori, ecco, perché un po' siamo sognatori, cioè l'idea di poter portare un marchio in un mercato così complicato e complesso come quello degli alcolici, ma in generale come sono i mercati di oggi, perché noi non siamo né più né meno un mercato più facile o difficile di tanti altri. Credo che sia una sfida, sì, controtendenza, È un po' una, come ho detto forse anche prima, un po' una follia, ecco. Lei ha detto una follia favorita anche dal terremoto. Diciamo che se non ci fosse stato paradossalmente il terremoto, credo che questa follia non sarebbe stata possibile. Insomma, il terremoto ha dato una voglia a tutti di ripartire, di ricostruire, di tornare a portare quello che era il nostro territorio ante la situazione del terremoto. Quindi dopo il territorio, la realtà economica del nostro territorio ha subito un brusco rallentamento. Una frenata totale, tante realtà che stavano espandendosi si sono viste bloccate, già in una situazione difficile, perché dobbiamo ammettere che comunque nel 2012 per noi era un anno, insomma, venivamo da 3-4 anni un po' complicati, e il terremoto ha dato, secondo me, in tante situazioni un colpo di grazia importante. Qui vediamo che tante aziende dopo il terremoto non hanno riaperto, non hanno avuto la forza di ripartire. La Casoni invece è stata un'azienda che ha avuto questa forza, vuoi perché era all'interno di un gruppo importante come il gruppo Averna, ma vuoi anche perché c'era la volontà da parte di tutti quelli che hanno lavorato qui dentro per tanti anni di ripartire, e poi perché comunque il territorio credo aiuti queste situazioni, specialmente in un momento come il terremoto. Tanta gente ha dato una mano alla Casoni, cioè aziende locali vicine che fortunatamente hanno avuto meno danni o non hanno avuto nessun danno, si sono rese disponibili per aiutare la Casoni in quel frangente a passare i momenti più difficili del terremoto. È tutto nelle stanze di questa distilleria, tra le più antiche d'Italia, dove lavorano una sessantina di dipendenti, parla di Finale Emilia, della Bassa, di antiche tradizioni, delle acetaie che ogni famiglia nel modenese custodisce in cantina, o del tabarro, che rimanda ai tempi in cui gli uomini si avvolgevano camminando nella nebbia, o ancora di ricette tramandate nei segreti delle case, ora diventate nuove etichette Casoni. Così, finito di assaggiare gli ultimi distillati, l'altro titolare della nuova Casoni, Pier Giorgio Pola, illustra etichette come le foto degli ultimi nati in casa. Abbiamo fatto un gin che abbiamo chiamato Gin Tabar. Tabar, come chi viene nel territorio sa che il tabarro, no? Questo mantello che i vecchi di una volta usavano portare, e che appunto durante l'inverno ti avvolgeva completamente, no? Perché ti buttavi sulla spalla. E questo simbolo del nostro territorio, per dare una connotazione molto territoriale di questo prodotto, è una gin che noi abbiamo chiamato gin appunto Tabar, gin che nasce fra le rive del fiume Panaro e del Secchia. Ma oltre a questo abbiamo fatto anche due vermouth, un vermouth al mallo di noci e un vermouth all'aceto balsamico. Due vermouth che, come sappiamo, il vermouth è più che altro un prodotto del Piemonte, no? Però noi abbiamo dato a questi due vermouth una connotazione molto territoriale, perché abbiamo fatto una piccola ricerca del passato, abbiamo trovato che nelle nostre vecchie famiglie, che era usuale non buttare via niente, no? Cercare di recuperare tutto, i vini che perdevano, diciamo, che stavano cominciando a ritornare in fermentazione, venivano bloccati con l'aggiunta di alcol, e poi dopo venivano spesso buttati dentro nel mallo di noci, dopo che questi erano stato spremuto, era stato torchiato per fare il nocino, e pertanto abbiamo fatto questo vermouth al mallo di noci. E poi altro simbolo, diciamo, del nostro territorio, cos'è? L'aceto balsamico. Chi, famiglia di Modena, che non ha un'acetaia nelle proprie cantine o nei propri soffitte, e pertanto abbiamo aromatizzato questo vermouth con questo prodotto tipico della nostra provincia. Cioè, mi sembra di capire in sintesi che la vostra linea sia quella, proprio perché è stato recuperato un marchio storico, è proprio quello di un ritorno agli aspetti più tradizionali anche della produzione del territorio. Assolutamente sì, noi, come abbiamo detto, siamo molto legati a questo paese, a questo territorio e in questo momento anche a questa azienda, e pertanto abbiamo cercato di ripartire un po' dalle origini, e andando incontro poi anche effettivamente a quelli che sono un attimo i trend del momento, quindi dei vermouth, del gin, e credo quello che sarà anche una prossima riscoperta che avverrà nei prossimi periodi, credo quello dell'amaro, e pertanto abbiamo fatto un amaro che abbiamo chiamato amaro del ciclista. Dietro alla simbologia della bicicletta c'è tanta storia, c'è tanta fatica. Voglia. La bicicletta ci insegna che dobbiamo spingere noi, non c'è qualcun altro che ci aiuta, quindi la mano del ciclista ha anche questa connotazione. Quindi sì, ripartiamo dal territorio, e un'altra peculiarità che noi ci teniamo a sottolineare è quello che abbiamo messo in piedi e che andremo a realizzare a brevissimo, che è il museo aziendale. Ci teniamo a far vedere quello che è stata per questi 200 anni e passa l'azienda in relazione al territorio. A Finale Emilia oltre a un'importante, come dire, compagine industriale, c'è anche una buona e un'importante compagine scolastica. Noi abbiamo un istituto agrario, abbiamo un liceo scientifico con lo sperimentale e quant'altro. Noi collaboriamo con queste realtà scolastiche e vogliamo appunto far conoscere quella che è stata la storia di questa azienda, la storia di questa azienda legata al territorio. 200 anni passati attraverso glorie antiche, marchi celeberrimi, talvolta persi nelle battaglie finanziarie come Amaro Braulio o Limoncetta, rimasti in capo a Campari o ad altri, ma 200 anni passati anche e soprattutto consolidando il legame con Finale Emilia, la sua gente e le sue fabbriche, che sono il più autentico paesaggio di questa terra. Per cui non stupisce che questa sia una storia di ripartenza, di sfida finanziaria controcorrente, di coraggio e passione, ma anche una storia di grande solidarietà, ricevuta pure da società a volte concorrenti. Piccoli miracoli di un terremoto che distrugge, ma anche avvicina. E quando passa, fa riscoprire tutti legati alla propria terra, uomini e aziende, più di quanto si immagini. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.